è un po' il paradosso di questo paese in particolare, di avere dei temi urgenti di cui tutti parlano, ma parlano, e dove spesso poi invece le politiche vanno in direzione contraria. Questo tema della transizione e dell'urgenza, della necessità di una transizione ecologica giusta dal punto di vista sociale e ambientale è evidente, lo vediamo tutti i giorni col cambiamento climatico, con i costi sociali, umani ed economici dei disastri provocati da questo cambiamento, eppure sembra, no, che ci siano, oramai diciamo così, che di fronte a questa evidenza non ci sono più quelli che dicono che è una finzione, no? Fino a qualche tempo fa qualcuno diceva anche ma quale cambiamento climatico, vi ricorderete anche le dichiarazioni anche di alcuni ministri, tra cui Salvini, che ogni volta che veniva un po' freddo, ecco c'è la neve, figuriamoci del cambiamento climatico. Oggi questa roba è superata, però ci sono i rallentatori, questi noi li chiamiamo così, i rallentatori, quelli che dicono sì, vabbè, però quelli che stanno spingendo per esempio e hanno fatto come il nostro governo in modo che l'Europa ritardasse di altri 10 anni il limite per la riqualificazione energetica degli edifici, come se fosse diciamo una cosa, un lusso che colpisce gli ultimi, non invece una modalità per stabilizzare, voglio dire, i prezzi dell'energia e magari per salvaguardare il patrimonio edilizio degli italiani. Quindi sono questi rallentatori che strizzano l'occhio al neoliberismo, che ha fatto extraprofitti su queste tematiche, e che usano la guerra, come dire, di propaganda, dicendo il cambiamento del clima è uno dei tanti strumenti in mano ai progressisti, a quelli che se lo possono pensare. Allora lunedì parleremo con il Cardinal Zuppi, con Barca, ma anche con alcune esperienze del territorio, di come invece la transizione giusta, che secondo il Foro Disuguaglianza e Diversità è quella che sa guardare ai primi ma anche agli ultimi, perché non possiamo fare l'errore che ha fatto per esempio la Francia sull'aumento del gasolio con il movimento dei gilet gialli, cioè non possiamo fare l'errore di contrapporre la transizione a chi oggi sta male. Occorre trovare dei modi per rendere appetibile anche per gli ultimi la transizione, e quando proprio non è possibile, magari trovando anche delle forme di tutela e di ammortizzazione, ma sicuramente quella è la direzione a cui andare. E lunedì a Bologna sarà questo dialogo che nasce da una relazione consolidata, perché il convegno di lunedì è promosso dal Foro di Uguaglianza e Diversità, che io coordino insieme appunto a Fabrizio Barca, e da Caritas. Caritas è una delle organizzazioni che fa parte del Foro. Certo. E quindi abbiamo pensato importante mettere insieme questi due mondi e dialogare di questa tematica, proprio perché è una tematica trasversale che attraversa culture diverse che oggi devono fare ponte. Oltre alla crisi climatica che rischia di allargare le disuguaglianze già presenti nella nostra società, anche la transizione, se non fatta bene, può riprodurre questo divario? Certo, sicuramente il cambiamento climatico avrà conseguenze più gravi sugli ultimi, perché sono quelli che abitano nelle periferie della città, sono quelli dove saranno più colpiti dal cambiamento climatico. Ma la transizione giusta deve essere una transizione che sa guardare alla doppia esigenza. Vi faccio un esempio concreto, perché certe volte gli esempi poi funzionano meglio. Una delle esperienze che verrà lunedì a Bologna è la Whirlpool di Napoli, no? Una fabbrica che produceva elettrodomestici, che è stata abbandonata per motivi di mercato dalla precedente impresa. Ebbene, quella fabbrica oggi si è rilanciata, ha salvaguardato il posto degli operai e delle operaie di quella fabbrica attraverso un nuovo ingresso di una nuova impresa che produce batterie che servono per le energie rinnovabili. E lì dentro si è coniugata l'innovazione tecnologica che guarda alle energie rinnovabili con la salvaguardia dei posti di lavoro. A quel punto, anche diciamo così, più fragili in quella situazione, che erano gli operai che stavano perdendo il posto di lavoro, colgono nell'immediato come in questa intreccio tra guardare all'energia rinnovabile, perché è una strada per abbassare il cambiamento climatico e per ritrovare un equilibrio. E dall'altra parte questa cosa non è soltanto importante per la loro salute come cittadini, ma è importante anche per il loro lavoro come operai ed operaie. O ancora la Fondazione di Comunità di Messina, che ha lanciato un progetto molto bello in una delle periferie di quella città, dove alcuni capannoni dismessi industriali sono stati rioccupati con una produzione di plastica biodegradabile ottenuta dagli scarti industriali attraverso un progetto, un brevetto dell'Università di Messina con quella di Venezia, e quindi si è stata ripresa un'attività produttiva in quel luogo, rigenerato un contesto territoriale, prodotto sviluppo economico con la produzione di questa plastica biodegradabile, e pensate un po', ha chiedato in affidamento quella fabbrica a una cooperativa sociale che reintroduce al lavoro soggetti fragili. La strada c'è, la transizione giusta dal punto di vista sociale e ambientale è conveniente per la salute delle persone, per la tutela dell'ambiente e per la produzione di uno sviluppo sostenibile. E questa roba qui deve essere detta, dobbiamo uscire dalle semplificazioni e dalla propaganda. Sì, anche perché in passato è stato messo in contrapposizione il lavoro e l'ambiente, ad esempio penso all'Ilva di Taranto, quindi queste esperienze dimostrano che non c'è nessuna contrapposizione. Sì, l'Ilva di Taranto è proprio la strada che non bisogna più fare. O ancora prima, le battaglie contro il nucleare a Trino Vercellese, oppure voglio dire all'Acna di Cengio, no? Dove c'era questa contrapposizione tra gli ambientalisti e chi lavorava. E in quella contraddizione chi si è guadagnato? Gli speculatori che continuano a fare extraprofitti sul dramma della crisi ambientale, perché ancora oggi ci sono, no? Voglio dire, quelli che spingono in quella direzione per continuare a fare affari. Quelli che mettono tra i nemici del popolo gli ambientalisti, dopo i poveri, i migranti e gli immorali, adesso anche gli ambientalisti. socialisti diventano nemici del popolo, no? Ecco, bisogna dire che invece la strada è esattamente il contrario. Pensate anche semplicemente, ha senso ancora investire sulle grandi opere come il ponte sullo stretto o il grande tunnel per la Napoli-Bari, che sono estrattive, che producono danno ambientale, o forse bisognerebbe per esempio intervenire sulla prevenzione idrogeologica? Ma quanti posti di lavoro facili, anche d'accesso facile, creeremmo in questo modo? E quanto verremmo a risparmiare anche in termini di spesa pubblica a prevenire invece che intervenire dopo l'ennesima inondazione o disastro ambientale? Non è economicamente, socialmente, culturalmente e dal punto di vista anche della prospettiva giusto continuare ad andare con le forme di economia di prima, o contrapponendo la transizione ecologica, quindi l'ambientalismo, agli ultimi fragili? Esattamente il contrario.